Yesu ananipenda. Watesi kaeni mbali, pisheni njia, Yesu ananipenda. Acheni nichekele, nitabasamu, Yesu ananipenda. Acheni nichekele, nitabasamu, Yesu ananipenda. Acheni nichekele, nitabasamu, Yesu ananipenda. Kinywa changu kinatambua, kinafahamu, Yesu ananipenda. Acheni nichekele, nitabasamu, Yesu ananipenda. Ata shetani ananijua, anatambua, kwamba ananipenda. Acheni nichekele, nitabasamu, Yesu ananipenda. Kwenye mapenzi kama ya Yesu, sioni, sioni, sioni, sioni, sioni. Kwenye upendo kama yeye, sioni, sioni, sioni. Kwenye huruma kama Yesu, sioni, sioni, sioni. Leta amani kama yeye, sioni, sioni, sioni. Mfariji kama Yesu, sioni, sioni, sioni. Kwenye baraka kama yeye, sioni, sioni, sioni. Mwisho, sioni, sioni, sioni, sioni, sioni. Wengine